Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Sono le 8.19, eccoci caro Oscar. Eccoci qua in questo 16 novembre, in sì. cui tu lo sai. Che succede? Io chiedo a te comprensione, perché no. io lo so che gli ascoltatori non capiscono, ma tu devi farmi da buon avvocato, perché oggi di fronte a tutti i santi io sono costretto a ricordare praticamente una sola, che guarda casa... Margherita, un'altra ennesima Margherita, quanti santi c'ha? Ma secondo me Margherita si è cambiata il nome a un certo punto perché ha capito... No, perché c'è una Margherita d'Ungheria, una Margherita di Baviera, una Margherita... Quando lei una di Savoia, una del Portogallo, esatto. Dei santi. Oggi quella di Scozia, regina pure lei, e naturalmente vedova. Io tutte le volte queste cose che vedo, tutte queste sante margherite, tutte regine e vedove, io guardo dico, e intreccio le dita per così dire. Comunque, vedova, sì, di Scozia, Malcolm III, eccetera, eccetera. Poi, comunque, almeno un'altra la devo ricordare, Santa Gertrude, che è una delle più grandi mistiche tedesche del XII secolo. Quanto agli anniversari del giorno, per me, e lo ricordo come se fosse ieri nel 1977 a Torino, oggi era il giorno in cui le Brigate Rosse uccidono il vice direttore della Stampa Carlo Casalegno, e davvero me lo ricordo al liceo come se fosse ieri, insomma, giorni terrificanti, per fortuna in Italia, almeno quella roba lì è finita, per così dire. E, nel 2011 giurava il governo Monti, e invece sono passati, no? Sì, è passati un'eternità. Un'eternità, sono passati solo 5 anni. E nel 1922 un certo signore, oggi andava in Parlamento per prendere la fiducia, dicendo: avrei potuto trasformare questa aula sorda e grigia in un bivacco di manipoli, ma almeno per il momento... Lì ne sono passati quasi 100 di anni, così, ma... però. Va bene così, quello invece ce lo siamo lasciati bene. Il bivacco di Manipoli risparmiatocelo, sì. grazie. Sì. Il compenso, vedi che cioè, però per i voti e il referendum, devo dire, tutti i giornali lo scrivono oggi, sì. Che la tutta sta recita sull'Europa, come hai ricordato giustamente l'Europa. Tu anche rassegna stampa. Ma mi ha colpito soprattutto Repubblica, ha detto in maniera chiara a pagina 3, questa è la versione di Repubblica, che in realtà è tutto un attacco studiato a tavolino, visti i sondaggi e visto il fatto che gli italiani che cosa non gradiscono. Tra le cose che gradiscono meno sono oramai l'Europa, l'euro, però anche la stampa, Alessandro Barbera, Marcello Sorgi, insomma è palese, cari amici del governo, che oramai è una cosa a tavolino, che poi marcia indietro, vabbè, tutto, cosa non si fa per i voti del resto? Vabbè, sarà la marcia indietro, vedremo, però pare ci sarà poi a dicembre, è un preveto, hanno fatto un preveto, va bene. Ma. Comunque, 800240024. Oggi avremo Vincenzo De Luca alle 8.40, il presidente della Regione Campania. Ha proposto una cosa, e cioè quella di assumere 200.000 persone nella pubblica amministrazione al sud. Anche lì non c'entreranno niente i voti per il referendum. Che dici? Niente, zero, so. Dipendete. Però guarda caso, l'ha proposto. Glielo chiederemo. E poi è spuntato un emendamento. Peraltro poi cassato, di chi voleva estendere il turnover nella pubblica amministrazione e quindi portare a compimento queste assunzioni. Ma perché tu la vedi come un'assistenza, una forma di assistenzialismo? No, ma puoi pensare mai che io abbia di questi dubbi? Io puoi pensare che immagino che magari è perché si vota tra... ma come puoi immaginare che una cioè cosa questa simile questa colpa anche mia, inzigare Oscar così. Ma no, ma come vedi, io lo escludo, la mia puttassativa, ridendo e facendomi risate e cacchini. Vabbè. In ogni caso, invece, a proposito di manovra, questo mi ha colpito. Io devo dire, Oscar, l'ho letto in rassegna stampa, è il titolo di apertura del giornale, che tra l'altro mette così: il Renzi abbaia all'Europa ma vuole tassare i nostri cani. E io lo so che quando si toccano questi argomenti poi la gente, altro che Europa, altro che scuole, altro che... mi hai toccato i cani, mi hai toccato il cane. Allora, c'è questa proposta, un emendamento. Abbiamo chiamato al volo, e lo ringraziamo, il deputato del PD, che è anche un medico veterinario, l'onorevole Paolo Cova. Buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Grazie. Allora, devo dire che Oscar ha gatti, anch'io ho una gatta. Intanto, la proposta è questa: tassare i cani non sterilizzati per la lotta al randagismo. L'ho capita bene? Certo. Perché questa cosa credo debba essere detta con chiarezza. Chi mantiene il proprio cane e lo sterilizza a questo punto non paga nessuna tassa. Chiaro. Poi non la chiamerei tassa, ma la chiamerei contributo per la lotta al randagismo. Perché chi vuole tenere un cane intero o una femmina intera aumenta la possibilità di avere cani randagi. Tutti noi ci scandalizziamo, e ogni italiano si scandalizza per i cani randagi abbandonati che costano. E quindi? Costano. Per cui è giusto che chi vuole contribuire a tenere questo fenomeno del randagismo dia un contributo alla collettività. Quindi spiegamolo, è una beh, noi la diciamo tassa, ma è un contributo. Solo per chi non sterilizza i cani. I gatti invece perché no, a posto. I gatti li lasciamo stare. Anche perché i comuni hanno un costo notevole nel mantenere i canili aperti. A questo punto ognuno di voi e ogni cittadino si scandalizza perché i comuni non riescono a dare i servizi ai disabili, alle persone in povertà, perché ma li sono spendono obbligati, per i cani randagi. Sono obbligati perché hanno una questione penale per il maltrattamento, per la famosa legge 291. Per cui sono costretti a farlo. Allora, il problema, onorevole, onorevole Cova, è che qui anche con Oscar si discuteva, poi alla fine si ricade sempre lì una nuova tassa. Lei la chiami come vuole, contributo, ma Guardi, può essere d'accordo, però a questo punto noi dobbiamo pensare che a questi cani chi favorisce il randagismo? Perché comunque non mettere in giro, lasciare liberi i cani in continuazione sono un danno sociale. Potrei farle e citarlo il problema dei cani randagi che assaltano gli animali nei pascoli. Anche gli esseri umani, per cui c'è tutto questo problema. Giustamente chi ha un cane e non lo vuole sterilizzare, io credo che debba contribuire. E quanto alla sarà? Quanto avete pensato? Lo decideranno i comuni. Non l'abbiamo messo. È un contributo, una tassa che va direttamente ai comuni. Io credo che chi ha problemi, una persona qualsiasi che ha problemi di assistenza sociale in un comune o quei comuni che si trovano in queste difficoltà, credo che la vedano assolutamente bene questa situazione. Ma soprattutto chi ha cuore gli animali. Certo, ma sterilizzarli gratuitamente, li sterilizza lei che è anche veterinario gratuitamente? No, uno paga. Certo. No, perché sa, uno deve pagare per sterilizzarli, se no paga la tassa. C'è la sirena proprio. È un servizio alla collettività. A volte i casi. Alla collettività. Poi immagini questi cani che restano anni bloccati in una gabbia in un canile. Io sono a difesa. Ma ci perdoni, onorevole, scherzavamo perché è passata una sirena sotto. Non è che la sta venendo a prendere. Sa che ci sono le trasmissioni in cui a un certo punto dice ambulanza. Ecco, più o meno. Sono per strada. Vabbè, però, onorevole, noi il fine è buono. Il fine è buono. Il fine è buono per le casse, per le casse dei comuni. No. Io credo per tutta la collettività. Provi a immaginare un comune che libera 500.000 euro che attualmente versa per i canili, quei 500.000 euro li usa per il trasporto scolastico dei ragazzi disabili. Secondo lei che cosa è più utile? Oppure il comune di Roma, come mi hanno raccontato qualche anno fa, per un canile spendeva 8 milioni di euro all'anno, uno solo. E pensi se 8 milioni di euro invece di essere spesi per dei cani che stanno in gabbie ristrette e tante volte con sofferenza, invece di spendere per soldi altro. Sì, è metterla così, insomma, come se fossero il canile o i disabili, che è un po'... servizi sociali, anche i trasporti, guardi, lo metta dove vuole. Però è un servizio che diamo ai cittadini. Chi vuole tenersi un cane intero e non lo vuole sterilizzare, chi lo sterilizza? non paga niente. Ma è chiaro. La sua posizione è chiara, da onorevole e veterinario, caro Oscar, quindi amico, amico degli animali, anzi di cura. Sì. No, Oscar è un po' dubbiosa su questo. Onorevole Cova, bisogna anche sostenere queste cose, perché poi dopo ci lamentiamo tutti quando vediamo le immagini dell'estate dei cani abbandonati. Mm. E il problema non ce lo poniamo dopo, anticipiamo, perché prevenire è meglio che curare. Va bene. Questo glielo dico da medico. Sì, ma per carità, ma però voglio dire... scusi, la mia risposta da amante degli animali da sempre è darmi da fare volontariamente con reti di volontari appoggiate ai suoi colleghi veterinari nelle aree dove ho vissuto, a Roma e Milano, per collocare gli eventuali frutti del randagismo. Possono essere gatti, cani, lo faccio da sempre, finanzio da sempre. Per me quella è la risposta. Poi io capisco, c'è un'altra impressione culturale che dice mettiamo una tassa. Vabbè, non è la mia, ma mi consente di dire, che non è l'unica maniera la sua, almeno questo, no? Perché c'è chi pensa che invece, proprio perché amiamo gli animali, ci diamo da fare anche perché gli altri sono meno responsabili. Però la mia è una risposta dal basso, che costruisce, come vede, consenso e ordine, e che ama gli animali e che non pensa che a tutti i problemi che ci troviamo di fronte nella vita la soluzione sia una tassa. Anzi, però, io penso che ha quasi nessun problema la sua, però questa è la mia opinione, io rispetto la sua. Se lei ha da piazzare 1000 cani è una cosa, se ne ha da passare 1 milione la situazione è diversa. Un milione, lei lo sa meglio di me, è fatto da tante volte sul territorio, 1000 su, ma lo sa che è così. Sono circa 700.000 ecco, esattamente, però non c'è una grande casella nazionale, c'è un territorio dove dal basso si costruisce, come lui sa benissimo, perché vi diamo una mano in tutto questo, tanti volontari che fanno questo esattamente. Ecco. Che tra l'altro, onorevole, incentiviamo loro. Ci dicono molti ascoltatori che costa, lei lo sapeva da veterinario, sui 500 euro sterilizzare un cane. No, non è vero. Quanto costa? Più o meno. Assolutamente. Più o meno. Io facevo grossi animali, per cui curavo le vacche da latte, prevalentemente, e ho fatto questo lavoro. Quanto costerà? Ma non credo che 400. Costi quella cifra. 400. No, no. Allora, dipende poi dai maschi e dalle femmine. Sì. Questo cambia, ma non credo quella cifra. Okay, poi cambia dalle zone dell'Italia, sì. Perché a seconda dei territori cambia da medico a medico, no? Ma questo sì, io non lo so, ma pensavo. Però va bene, onorevole. Io amo gli animali. Ma non c'è dubbio, ci siano animali in giro. Ma su questo nessuno lo mette in dubbio. Io amo anche i contribuenti. particolare. Oscar ama anche gli animali contribuenti. Io amo anche cioè quelli come me, gli animali contribuenti, cioè quelli come abbiamo me. Abbiamo anche i bipedi che devono mettere. Comunque, grazie onorevole Paolo Cova. Grazie onorevole Paolo Cova, per carità di Dio. E però, chissà se passa questo emendamento. Non credo, perché Renzi li sta sbaraccando tutti quelli del PD che pensano a nuove tasse. Avevano lì i miei. Non fare l'IMU. Poi tra l'altro l'IMU è la sigla di una banca d'affari che adesso sta in Banca Intesa, quindi non credo che saremmo stati molto felici a Banca Intesa per l'IMU. Naturalmente era una scusa per alzare le aliquote, perché dalla massima residua di IMU Tasi si tornava alla prima casa, si aggravava sulla seconda casa, si arrivava all'11,4 per mille. Renzi appena l'ha saputo ha detto ma allora non avete capito nulla, ragazzi, si vota le tasse il giorno dopo, il 6 dicembre, se abbiamo vinto. Allora, cosa è? Guarda che la finanziaria non è mica approvata. No, chiaro. Quindi che non è nella approvata, seconda come camera, sempre sotto Natale. Nella seconda camera, a seconda di chi vince, vedrà. Spunterà tutto. Cioè, a seconda di chi vince, uno, la spesa pubblica. Se c'è l'altro, la spesa pubblica più le tasse. Quindi, quello che ha proposto De Luca, 200.000, visto che adesso ne parliamo, 200.000, allargare le maglie del turnover e assumere 200.000 nella pubblica amministrazione. E se è stato tradotto in un emendamento, è stato cassato questo emendamento alla Camera dal Ministero dice che potrebbe rispuntare sotto Natale. Ma la manovra è soggetta a riscrizione integrale a seconda dell'esito del referendum. Del resto, siamo riusciti. Questo io dico una cosa seria: io sono senza parola di fronte a come la politica italiana è riuscita ad impiccare una credibilità già compromessa, già non molto forte del paese sui mercati internazionali, ulteriormente al referendum, perché tutti gli aumenti di capitale delle banche, cioè MPS, Unicredit, la vicenda popolare, BPM e così via, tutta prenderà una strada o il disastro a seconda di chi si vota. Lo spread oltre 200 punti a seconda di chi si vota, gli investimenti esteri a seconda di chi si vota, la polemica con l'Europa, il veto sul bilancio a seconda di chi si vota, le tasse e i deficit a seconda di chi si vota. Ma ti rendi conto? Una irresponsabilità, la mia opinione, totale, totale. Qui devo dire, tra poco avremo De Luca, c'è anche un ascoltatore, Fabio da Verona, che si chiama invece su questa questione dei cani. Oscar, qua non so, ci sono tipo, sono arrivati 500 messaggi e sono favorevoli? No, oh, la maggior parte sono tutti contro. C'è anche chi propone, non si fa, di portare i propri cani a fare i bisogni davanti alle case dei proponenti. No, non si fa. O chi dice, vabbè, i cani adotteranno il metodo oggi no knaus, se passerà questo. Comunque Fabio ci chiama da Verona, buongiorno. Sì, pronto? Sì, Fabio. Buongiorno, sì, sono io. Sì, è lei, sì. Buongiorno, mi scusi, c'era un problema con la mia voce, stacca tutto. Buongiorno, mi scusi, mi sembra paradossale la proposta in questo momento del PD, che pur di trovare soldi va a attaccare anche i cagnolini. Mi viene da pensare, io ho un cardino. Per andare in giro col cardino, comunque, come tutti i cani, ce l'ho obbligo di portarli al guinzaglio. Faccio fatica a pensare al mio cardino che selvaggiamente va ad accoppiarsi con qualche cane, non so di quale razza, sì, perché che incrementi il randagismo in Italia, creando questo. Il suo cardino al guinzaglio, no, però il problema del randagismo c'è. Mi chiedo, ne credo, c'è una legge che obbliga a comportarsi in un certo modo con i cani domestici. Posso capire magari con i cani che si trovano in aziende agricole piuttosto che possono avere di questo tipo di libertà. Sì. Allora, facciamo la tassa ai cani solo delle aziende agricole. Ma non neanche, non ha senso, perché si può intervenire. No, dico, volendo cercare di andare incontro all'idea dell'onorevole, non trovo una giustificazione seria, non esiste. Poi comunque si sottopone un animale a un intervento chirurgico. Vabbè, questa è una scelta libera, se uno lo vuole fare. Sì. C'è da dire che ci dicono, uno ci ha scritto, l'ho appena fatta a Padova, 45 euro con fattura, quindi questo abbassa un po' i costi. No, 500 euro ti assicuro che non sono, però no, questo, se un veterinario chiede 500 euro per fare un intervento di questo tipo, segnalatelo, perché c'è qualcosa che non funziona, ecco. In ogni caso va bene, dai. Ma il problema è che l'intervento chirurgico sull'animale, ma io ripeto, a me interessa innanzitutto, è anche l'intervento chirurgico su me contribuente, capisci? Visto che tu, attento a te, perché se fai un prelievo sul tuo conto corrente di più di 1000 euro ti scatta l'indagine, perché io devi sapere che ieri ho avuto, siccome ho criticato questa indagine, ieri il vice ministro dell'economia Zanetti subito in diretta mi ha fatto una cosa dicendo, ma questa è una roba di malafede, ignoranza, smentita. Ieri mi è toccato ricordargli che invece non è così e che ho ragione io, e alla fine infatti si è conclusa senza danni la polemica. Perché quella vicenda della norma, gli accertamenti, ripeto, e state attenti, perché l'agenzia di entrate potrà farla questa indagine se fate il prelievo di più di 1000 euro giornalieri o 5000 euro mensili, e sarete voi che dovrete giustificare l'immersione non è la prova. Questa è sì una norma vecchia, ma c'era stata una sentenza della Corte Costituzionale del 2014 che l'aveva proclamata illegittima per gli autonomi e per i professionisti. All'agenzia delle entrate questa cosa è rimasta nel gozzo. Ecco, questa nuova norma del decreto fiscale che si vota oggi, tra l'altro, ecco che di nuovo c'è una norma generale che invece consente gli accertamenti sulla base del fatto che dovrete giustificarvi voi, cari contribuenti, e la cosa è anche retroattiva. Queste per me sono segni di barbarie, te lo dirò, perché i miei soldi diventano un'ipotesi di reddito in nero. Ma dai, ma ci stiamo scherzando. In ogni caso, vedi, sono d'accordo con la tassa sui cani, ce ne sono troppi, ne abbiamo trovato uno e hanno i cani questi ascoltatori. Va bene, dai, facciamo così, andiamo tassa sì, tassa no, andiamo in pubblicità. Dopo avremo Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, per capire questa proposta di assumere 200.000 persone nella pubblica amministrazione al sud. Tra poco. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com. Il miglior ERP per il successo della tua impresa. 24 mattino. Attenti a noi due. Quando sono le 8:42 minuti in punto, caro Oscar, eccoci qui. Allora, vogliamo dare il benvenuto a Vincenzo De Luca, il governatore della Campania, presidente della Regione Campania. Buongiorno De Luca, grazie. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, questa proposta di creare 200.000 nuovi posti di lavoro a pubblica amministrazione per i giovani nel mezzogiorno, lei l'ha lanciata ed era comparso un emendamento che voleva allungare i limiti del turnover nel pubblico impiego nella legge di bilancio. Per la verità questo emendamento per il momento è stato cassato dal Ministero dell'Economia. È quella la via che lei penserebbe per creare questi posti di lavoro? Ma io ho lanciato questa proposta anche per cominciare a svegliare chi dorme in questo paese, chiarendo ovviamente che non ho nessuna intenzione di fare demagogia o di rigonfiare la pubblica amministrazione di parassiti, ma partendo dai dati reali. I dati sono questi: nel sud abbiamo 500.000 posti di lavoro in meno rispetto al 2008, un tasso di emigrazione di 100.000 giovani che se ne vanno ogni anno dal sud, 10% di popolazione sulla soglia di povertà. E i tempi che abbiamo per mettere in movimento gli investimenti dei fondi europei non sono brevissimi. Il primo cantiere, se partiamo oggi, si apre fra un anno e mezzo con l'attuale normativa. Allora, questo è il primo punto di riflessione. Qual è la situazione oggi? Sì. È una situazione drammatica che rischia di diventare da problema sociale, problema democratico, perché quando la gente non ha il pane alla fine del mese si distacca dalla democrazia. Secondo, ed è la domanda fondamentale, questo personale serve o no? Sì. Allora, partiamo da questo. Noi veniamo da 10 anni di blocco del turnover. Abbiamo la situazione degli enti locali, degli enti pubblici, che è oggi segnata da un invecchiamento drammatico, da una dequalificazione drammatica. Ci sono comuni nei quali non c'è il personale qualificato per i servizi essenziali. Ci sono pronto soccorsi nei quali non c'è il personale medico per fare i servizi ordinari. Guardi, io amministro una regione nella quale abbiamo deciso di passare da 42 società partecipate a 7, per dirle che siamo su una linea di assoluto rigore, però quello che serve, serve. Liberiamoci anche di questa ideologia del pubblico impiego vista permanentemente come luogo del parassitismo e del mancato. Lei l'ha detto come premessa, non vuole gonfiare di parassitismo la pubblica amministrazione, però sembra una forma di assistenzialismo vedere l'idea di 200.000, no? Ragioniamo sempre nel merito. Allora, la mia ipotesi è molto semplice: noi non abbiamo la possibilità di aspettare altri 10 anni senza dare una risposta alla gente di carne ed ossa. Non è che mettiamo domani mattina 200.000 persone. Intanto avviamo un processo. Intanto stabiliamo di avere delle retribuzioni graduali. Tutta l'operazione, se calcoliamo 1.100 euro al mese come retribuzione media, vale 2 miliardi e 600 milioni. Questo è il calcolo che facciamo noi. La mia proposta è di mettere a lavorare innanzitutto giovani qualificati, laureati, diplomati con il massimo dei voti. Cominciamo da questi. 900 euro il primo anno, nella forma di stage e ovviamente a retribuzione graduale. 900 euro, ti impegni a fare lavoro straordinario non retribuito, però hai una prospettiva. 1.100 il secondo, 1.300 il terzo anno. In 3 anni gli attuali dipendenti pubblici avranno ovviamente anche un pensionamento di un 10% di personale. E quindi già devi coprire una quota fisiologica di quelli che vanno in pensione. Poi, pensate ai settori nei quali diventa obbligatorio fare l'immissione di nuovo personale. Dicevamo prima della sanità, ma lei lo sa che io ho un'età media dei medici in Campania che è di 60 anni. E siccome dobbiamo comunque mantenere i servizi, noi paghiamo di straordinario ai primari, ai medici, più di quanto pagheremmo se assumessimo un giovane medico. E così per i trasporti. Ma possiamo andare avanti in questa situazione demenziale? Allora, se ragioniamo nel merito, le esigenze vere, la qualità che ci serve da immettere nella pubblica amministrazione e le risorse necessarie, io credo che il problema lo risolviamo. De Luca, mi scusi, perché lei dice i fatti sono che per esempio la scuola, che sono 1.180.000 dipendenti pubblici e diventano 1.300.000 con le messe a ruolo del governo, giuste, ecco, tutto il nuovo, i tre quarti, dicono le statistiche, del problema delle scoperture con cui in tutta Italia abbiamo cominciato questo anno scolastico, 130.000, dipende dal fatto, e non è mica una questione antropologica, sono i numeri a dirlo, che sul totale dei dipendenti assegnati, quelli che chiedono la ricollocazione a sud sono i tre quarti rispetto al fatto che invece i posti da coprire sono per due terzi a nord. Allora, questo problema nella pubblica amministrazione esiste, lo dicono i fatti. Lei dice aumentiamo ulteriormente invece le cose al sud. Questo problema è un problema che c'è a tutti i livelli della pubblica amministrazione, non riguarda solo la scuola, riguarda le graduatorie dei dirigenti e così via. Quindi anche questo è un fatto. Lei dice però il sud ne ha più bisogno. Il sud ne ha più bisogno, non lo so, perché il problema degli stop e dell'età media riguarda in realtà tutta la pubblica amministrazione, non solo quella del sud. L'età che lei giustamente depreca come innalzatasi per via del blocco al turnover è un problema che riguarda i comuni, le regioni, l'amministrazione sanitaria, le università, tanto al sud quanto al nord. Allora, terza osservazione, è chiaro che il nostro mestiere è dire che quando un politico a pochi giorni da un voto propone 200.000 assunzioni, no, lei dice non voglio demagogia, però perché se il primo problema è che lo sto posto è generale, il secondo è generale, allora la risposta deve essere solo al sud? L'osservazione è assolutamente corretta e pertinente, quindi io sono per ragionare nel merito parlando un linguaggio di verità. Lei ha assolutamente ragione, perché questo problema dello svecchiamento e della qualificazione della pubblica amministrazione è un problema generale. Noi non faremo mai la digitalizzazione se abbiamo gente che è sopra i 60 anni. Bene. Dopodiché, proseguendo sulla sua linea, quindi guardiamo i dati reali, perché per la scuola c'è sicuramente la situazione che lei denunciava, ma in generale i dipendenti pubblici sono oggi collocati così. La Campania ha 51 dipendenti pubblici ogni 1000 abitanti, meno dell'Emilia Romagna, della Toscana, dell'Umbria, della Liguria, del Friuli, del Lazio. Dunque noi, diversamente da quello che si può immaginare, perché quello che pesa nell'opinione pubblica sono i 20.000 forestali, la Calabria, la Sicilia, ci sono anche quelle anomalie, per l'amor di Dio. Ma ragioniamo nel merito, io voglio partire dai numeri. Per quello che ci riguarda, io credo che non ci siano grandissime anomalie. Se c'è qualcosa in più da fare, io credo che una classe dirigente responsabile deve farla nel sud. Perché se al nord abbiamo recuperato gli occupati che avevamo nel 2008, il Jobs Act ha funzionato, ma per il nord, nel sud, le ripeto, siamo ancora 500.000 no, no. dipendenti sotto. Certo. Allora probabilmente un atto, come dire, di apertura sociale, che non costa l'ira di Dio, ma che ci consente soltanto di anticipare i tempi di immissione di personale qualificato. Però c'è il terzo aspetto, De Luca, quello della vicinanza del referendum. Questo si presta a questo tipo di lettura per alcuni critici, a dire casualmente manca un mese. Ma guardi, anche questo è, credo sia un argomento facilmente smontabile, anche perché i principali bersagli a mia proposta sono i radical chic e la sinistra ottusa che abbiamo anche nel mio partito. Quindi non si preoccupi da questo motivo. Quando ho fatto la proposta, i primi che hanno cominciato a fare i conti sostituendosi al ragioniere dello Stato sono stati a sinistra. Poi c'è stato ovviamente Grillo che ha detto ma dove prendi i soldi? Gli volevo dire prendo un quinto dei soldi che prendevi tu per dare il reddito di cittadinanza a tutto il mondo, pinguino. Queste sono polemiche che facciamo un po' fra di noi. Senta, voglio fare i conti veri. Sì. No, le posso fare una domanda? C'è chi a Napoli, naturalmente non sto parlando della regione, ma sto parlando del Palazzo del Comune, pensa, a proposito del referendum proprio, che già con le regole attuali, lo ricordiamo a chi ci ascolta, a Napoli non c'è bisogno di dirlo, c'è stata un'enorme polemica nel tempo per i poteri che si è preso il governo sul risanamento di Bagnoli, e quindi la giunta guidata da De Magistris per mesi e mesi ha negato la legittimità addirittura degli strumenti di intervento per il risanamento di Bagnoli. Poi in qualche misura, almeno per il patto per Napoli, si è risolto il problema, ma De Magistris dice già con la Costituzione attuale questi hanno messo le mani a Napoli dove non dovevano. Lei non la pensa così, da una parte. Dall'altra c'è chi dice sì, non la pensa così, De Luca, anche perché tanto alla fine Renzi, il governo Renzi, si papperà l'EAV, per chi non è napoletano, è la società Interquadrato Volturno che in realtà gestisce tutti i trasporti su rotaia dell'area metropolitana e fuori metropolitana, molto scassata dal punto di vista finanziario e dell'efficienza, e tutti dicono tanto poi c'è il ponte per dare la ferrovia dello Stato, come l'ATAC a Roma, come Trenord a Lombardia, eccetera, eccetera. Che cosa c'è di vero in queste accuse? Niente. C'è solo un elemento che dobbiamo tenere presente, che è un elemento serio. Combattere l'illusione, che potrebbe avere anche questo governo, di una nuova centralizzazione dei poteri come risolutiva dei problemi. Il rischio esiste. Questo sarebbe un errore drammatico. Quando io vedo l'albo unico dei manager della sanità, l'albo nazionale dei dirigenti pubblici, una stupidaggine, io sono contro. Ma quando si parla di Bagnoli, noi meridionali dobbiamo cospargerci il capo di cenere, perché se siamo screditati agli occhi del paese e anche per l'immagine di cialtroneria e di inconcludenza che abbiamo dato per decenni, se tu a Bagnoli butti dalla finestra 300 milioni di euro e in 20 anni non fai un accidente di niente, benvenuto il governo che decide di metterci le mani, anche perché il governo ci mette 270 milioni. Quindi chi mette i soldi ha anche il dovere di controllare come diavolo si spendono i soldi. Allora per me è da combattere ovviamente ogni logica di commissariamento astratto, ma di fronte a delle emergenze eterne io credo che in un paese civile il governo abbia il diritto di intervenire. Abbiamo 30 secondi, Presidente De Luca. Ci spiega questa frase che lei ha detto: con l'idea di combattere la corruzione stiamo paralizzando l'Italia? C'è stata anche una polemica con Cantone che ha reagito su questo. No, polemica assolutamente fuorviante, perché Cantone non c'entra niente. Il mio riferimento non era all'autorità anticorruzione, con la quale ho stipulato un protocollo di legalità appena abbiamo cominciato a lavorare sugli appalti pubblici e sul governo di misure che riguardano l'ambiente, rifiuti e ciclo delle acque. No, la mia osservazione critica riguardava una legge anticorruzione che ha una ricaduta demenziale sull'intero paese. Mi riferisco a una legge ancora in vigore, grazie a un Parlamento invigliacchito che abbiamo in Italia, che prevede che per una condanna per abuso in atto d'ufficio in primo grado un funzionario pubblico riceve automaticamente il dimezzamento dello stipendio, il demansionamento e l'allontanamento dai settori operativi. Questa legge è ancora in vigore ed è demenziale, perché in un paese come l'Italia, in questo groviglio burocratico, amministrativo, legislativo, chiunque voglia trasformare la realtà, prima o poi un abuso in atto d'ufficio se lo prende. Si fermi qui però De Luca, perché altrimenti sforiamo e la ringraziamo. Vincenzo De Luca, presidente del Partito Democratico, abbiamo detto, della Regione Campania. E allora io vado a dire ai miei gatti che forse... Forse la tassa la evitiamo, però forse non si sa. Da oggi meno papà, cari gatti, perché papà deve pagare le tasse. Oggi è il 16, oggi è proprio il giorno sbagliato, per dirmelo, per me. Come tutti i 16 del mese noi autonomi veniamo tosati. Dai, a domani.